Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al beato, al nobile e al pienamente autoilluminato. These days, mindfulness has become very much part of the psychotherapeutic scene. In questi giorni la mindfulness è diventata una parte rilevante nella scena della in ambito psicoterapico. And the therapies which use mindfulness are very successful. E le terapie che utilizzano la mindfulness, quindi la consapevolezza, hanno molto successo. Mindfulness and depression, mindfulness and stress reduction. La consapevolezza e la depressione, o la consapevolezza e la riduzione dello stress. I think most of you have heard of this, eh? Penso che la maggior parte di voi l'abbiano già sentito parlare. Who hasn't heard? Chi è che non ne ha mai sentito parlare? Ah, universal. Una conoscenza universale. So our job really is to understand what the Buddha meant by mindfulness. Quindi il nostro lavoro è di capire veramente cosa intendeva il Buddha con questa consapevolezza o mindfulness. What he means by this word sati. Quindi cosa intendeva con questa parola sati. And he puts an adjective in front of that, sama sati. Right awareness. E lui mette un aggettivo davanti alla parola sati, quindi sammasati, quindi la giusta consapevolezza. The correct awareness. Quindi la consapevolezza corretta. And to understand that, it's just good perhaps to revise how he came to understand what sammasati was. Quindi per comprenderlo forse può essere utile ripassare come lui è arrivato a comprendere che cosa fosse veramente sammasati. So, at the age of 29, he leaves the household life, he leaves the lay life. Quindi all'età di 29 anni lui abbandona la sua vita da laico. His son is just born. Ha un figlio appena nato. And one can only presume that there was some very overwhelming reason for him to leave his household life, his lay life, his wife. Solo supporre che ci deve essere stato un motivo molto, come dire, molto forte. Molto convincente, insomma, perché lui prendesse questa decisione di lasciare la sua vita domestica, lasciare la vita da laico, sua moglie, il figlio. I have my own set of psychotherapeutic reasons. Io ho la mia serie di ragioni psicoterapeutiche. If you remember when he was a child, his mother died within the first week of his birth. Se vi ricordate, nella sua stessa vita la mamma morì quando lui non aveva ancora una settimana di vita. And it was her sister who became his stepmother. Ed è stata poi la sorella del Buddha che è stata la sua madre adottiva, diciamo, putativa. So now we know that. Scusate, la sorella della madre, la zia. Yeah, la zia. So now we know from our own psychology that even in the womb this young being is being affected by their mother. E quindi adesso sappiamo che addirittura all'interno dell'utero il bambino in qualche modo è influenzato dalla propria madre. And there is a very deep heart connection, eh? E quindi c'è un collegamento molto profondo da cuore a cuore. It would seem even within the last month there, the child knows, say, the mother's voice. You can hear it. Pare che il bambino nell'ultimo mese di gestazione riconosca la voce della madre. And that first week is understood to be a very close bonding between these two beings. E quella prima settimana di vita sembra essere un legame molto stretto tra questi due esseri. This is of course outside my personal experience. Ovviamente questo va al di fuori della mia esperienza personale. Except that I also had a mother. Tranne il fatto che anch'io avevo una mamma. And suddenly this connection disappears. Improvvisamente questo collegamento, quindi questo contatto, sparisce, viene interrotto. Yeah, so I presume that there is already some grief, some sense of loss within that psyche. Quindi io suppongo che ci sia già un certo dolore, un senso di perdita in quella psiche. And as somebody pointed out to me, in fact Gian Domenico, when his child is born, that's when he leaves. Qualcuno poi mi ha fatto notare che in effetti quando poi nasce suo figlio, lui se ne va. So this I think proves my theory. Io credo che dimostri la mia teoria, la prova della mia teoria. Without any doubt. Senza alcun dubbio. So he leaves home, and we can presume that he is suffering from what we would call an existential crisis. Quindi lui lascia la casa, e noi possiamo supporre che lui soffra di quello che noi adesso chiamiamo una crisi esistenziale. And we know this because of the myth that surrounds his leaving. E quindi questo noi lo sappiamo grazie al mito, insomma, la leggenda che circonda la sua partenza. If you remember, he was out hunting four times, and on each occasion he came across a sick person, an old person, a corpse, and a monk or an ascetic sitting under a tree. Quindi, se vi ricordate, lui è andato quattro volte, è andato per una battuta di caccia e ha incontrato quattro persone. La prima una persona malata, poi una persona anziana, vecchia, poi un cadavere. E infine un monaco seduto sotto una pianta, sotto un albero. And every time he said he didn't know what it was, you see, what is this? E ogni volta lui si chiedeva, non sapeva cosa fosse, quindi si chiedeva, che cos'è? And when he was told, he said, does this happen to me? E quando poi gli fu spiegato, lui chiese, ma questo succederà anche a me? So we can see here that virtually everybody, as they come to the end of youth, yeah, round about somewhere in their middle 20s, they begin to take life a bit more seriously. Quindi vediamo che un po' in tutti succede questo, quando si arriva alla fine della propria gioventù, quindi intorno ai 25-26 anni, uno comincia a prendere la propria vita un po' più seriamente. Most. La maggior parte. The infinity of time that youth presents us suddenly becomes curtailed. There's an end. Quindi questa infinità di tempo, questo tempo illimitato che sembra aprirsi davanti a noi quando siamo giovani, poi improvvisamente sembra che venga accorciata, no? Come se volga a termine o presenti un termine, una fine. And there is also an incident where after a party, in the morning he sees all these people in not very pleasant situations, not very pleasant positions. It's disgusting. Si racconta di questo episodio in cui il Buddha, dopo una festa, lui si risveglia e vede le persone intorno che sono in una posizione non molto gradevole, addirittura disgustosa. This tells us that also he was beginning to find the pleasures of life to be an empty experience. E questo ci dice che lui cominciò anche a ritenere che i piaceri della vita fossero forse delle esperienze vuote. So with this turbulence in his heart, he leaves home. Quindi parte da casa con questa sorta di turbolenza nel cuore, irrequietezza, secondo me. He leaves home. Parte di And I presume he told his wife and his family that he would be away just for a short time to sort this stuff out. E suppongo che abbia detto a sua moglie e alla sua famiglia che sarebbe stato via un periodo breve solo per risolvere un po' queste questioni. So now he has understood that the big question in his mind is why is there suffering? Quindi la grande domanda che ha in mente è perché c'è la sofferenza? So this is something which all philosophers and we ourselves, we have to ask, why am I suffering? E questa è una cosa che si chiedono tutti i filosofi, anche noi stessi, perché sto soffrendo? And various philosophers come to, and theologians come to various understandings. E ci sono vari filosofi, vari teologi che arrivano a diverse comprensioni. The one that I like the most is the French existentialist Albert Camus. Quello che a me piace di più è quella la conclusione, dell'esistenzialista, filosofo esistenzialista francese Albert Camus. And he said that the fact that we are conscious and that we have to suffer makes life absurd. E lui dice che il fatto che noi siamo coscienti e che dobbiamo soffrire rende la vita assurda. Unreasonable. Irragionevole. And the only dignified way to approach this is to commit suicide. E l'unico modo dignitoso per affrontare questa questione è commettere suicidio. This somehow attracts me. In un certo senso questo mi attrae. Especially when the suffering is a little overwhelming. Soprattutto quando la sofferenza è così forte, devastante. So he now goes out in search of the end of suffering. Quindi adesso Buddha esce, va alla ricerca della fine della sofferenza. And the first people he goes to are those who can teach him how to establish ecstatic states of mind. Quindi le prime persone a cui si rivolge sono quelli che possono insegnargli degli stati estatici della mente. So some of you will know these we now call the jhana, the absorptions. E come alcuni di voi sanno, questi sono quegli stati che adesso noi chiamiamo i jhana, cioè gli stati di assorbimento. And every religion has these absorptions, these ecstasies. E tutte le religioni hanno questi assorbimenti, questi stati di estasi. Now, the advantage of a jhana, as opposed to the pleasures of ordinary daily living, is that you don't need anything outside you. Quindi il vantaggio di un jhana, di questo stato di assorbimento rispetto ai piaceri sensoriali che può dare la vita quotidiana, è che non necessitano di nulla al di fuori di te, della persona. When my happiness is dependent on something outside myself, then of course there are dangers that this disappears. Quando la mia felicità dipende da una cosa che è al di fuori di me, ovviamente ci sono dei pericoli, c'è il pericolo che questa cosa sparisca. No ice cream? Cosa? Non c'è più gelato? No, this is terrible. Terribile. But with the jhana, all you need is, especially in the East, you just need a bit of cloth and a tree. Ma per i jhana, tutto ciò di cui hai bisogno, soprattutto in Oriente, è un po' di qualcosa per coprirti, insomma, un telo e un albero. A little bowl and you go around asking for a bit of food and then you find your tree again. Una ciotola con cui andare in giro a chiedere per un po' di cibo e poi torni al tuo albero, a sederti sotto l'albero. Because you don't using much energy, you don't need so much food. Poiché non stai usando molta energia, non hai bisogno di molto cibo. And all day long, just through the practice, even of metta that we did last night, you're in a state of ecstasy. E per tutto il giorno, attraverso una pratica come quella della messa che abbiamo fatto ieri sera, uno può stare in questo stato di estasi. So this he learnt from two teachers. Queste cose il Buddha l'ha imparato da due insegnanti. And he became such an adept, so good at it, they asked him to become a teacher. E poi è diventato così bravo che gli hanno chiesto di diventare lui stesso un maestro, un insegnante. But there was just a very simple problem with this. Ma c'era un problema molto semplice. Every time the ecstatic state stopped, he returned to being depressed, anxious old Gautama. Ogni volta che finivano questi stati di estasi, lui tornava ad essere il vecchio Gautama, depresso e anxious. E ansioso. Ansioso, sì. So, he tried another method. E così provò un altro metodo. And this was mortification. E questo era la mortificazione. So, there was already a great example of self-mortification in the founder of the Jain religion. E c'era già un esempio di questa pratica della mortificazione all'interno, cioè, come dire, promossa dal fondatore della religione jainista. And there is some understanding that actually he learnt this from this particular teacher, or at least he was involved with that particular type of group. Mi sembra che lui abbia preso questa pratica proprio da questo insegnante, o che comunque frequentasse questo gruppo di jainisti. And we know that you know, he had five constant companions who practiced this with him. E sappiamo anche che lui aveva cinque compagni costanti che facevano questa pratica insieme a lui. Now just thinking of the Jains, they had an idea of a soul. Quindi questi jainisti, si dice così, avevano un'idea dell'anima. And this anima was kept down because of the karma stuck onto it. E quest'anima veniva tenuta giù, fissata, perché il karma era praticamente era attaccato all'anima, era tenuta giù dal karma. Like chewing gum. Come chewing gum. And if you could take this off and not put any more on, then the soul would float up to the heavens. Quindi se si riusciva a togliere questo karma e a non attaccarci più nient'altro, allora quest'anima poteva, come dire, sollevarsi su nei paradisi, paradiso, nei cieli. So the problem did not lie with the mind, but with the body, which created the desires. Quindi il problema non era nella mente, ma era nel corpo che creava i desideri. So you know, things like greed and lust and wanting sensual pleasures all started with the body. L'avidità o il desiderio o i piaceri sensoriali, la ricerca di piaceri sensoriali, tutto questo partiva dal corpo. So if you reduce the desires of the body right down, then this was one way of at least taking of stopping more chewing gum sticking onto this soul. Quindi se si riusciva a ridurre al minimo questi desideri del corpo, allora se non altro si sarebbe riusciti a prevenire il fatto che ci fosse altro chewing gum appiccicato all'anima. Dice la San Chewing Gum. La gomma da masticare. And of course they also had the understanding that even when you did harm, even if you didn't mean it, there was more chewing gum. E loro pensavano che quando uno faceva del male, anche se non era intenzionale, questo era comunque un'aggiunta di più gomma da masticare. You've seen how Jain monks sweep in front of them. Eh? Avete visto come i monaci jainisti spazzano davanti, cioè spazzano il sentiero su cui camminano. They even have the mindfulness that when they turn over in sleep, they wake up to sweep. Loro hanno anche questa attenzione per cui quando si girano durante il sonno loro si svegliano per spazzare dove andranno poi ad appoggiarsi. So he practiced this and he said he could hold his spine through his stomach. Quindi lui ha fatto questa pratica fino al punto di poter di riuscire a tenere la sua spina dorsale attraverso lo stomaco, da quanto era diventato magro. So we can say he was thin. Ci possiamo dire che era magro. It sounds as though he almost killed himself. Sembra che quasi sia, ne sia morto. He took it right. We have a picture. Yes. He took it right to the final degree, and then he realized that actually this wasn't going anywhere. Quindi l'ha portato proprio fino alle estreme conseguenze, diciamo. Poi si è reso conto che non lo stava portando da nessuna parte. So at this point he leaves his companions, who are disgusted with him because he's gone soft. A questo punto quindi lascia i suoi compagni, che sono disgustati con lui perché lui praticamente si è ammorbidito. So he's by the roadside, presumably now in a bit of a state of despair. Quindi lì al lato della strada, e supponiamo che a questo punto sia in uno stato di disperazione. Because he has taken all the teachings that were available and he still has this problem. Why am I suffering? Perché lui ha, come dire, ha avuto tutti gli insegnamenti possibili, disponibili, però è ancora lì a chiedersi: ma perché sto soffrendo? So, as we know in the story, a woman passes by, Sujata, with some rice pudding or rice cakes. Come sappiamo, poi passa di lì una donna, Sujata, con un budino di riso o delle torte di riso. I personally prefer rice pudding. Io personalmente preferisco la versione del budino di riso. And it is said that she was going to offer it to the local deity, but seeing this wretched man, she offered it to him. Si dice che lo stava portando alla divinità locale, però vedendo questo uomo così malmesso, diciamo, lo offrì a lui. In the scriptures, of course, he was shining like a god. And she mistook him for the local deity. Nelle scritture si dice che lui stava risplendendo come se fosse un dio, e quindi lo ha scambiato per la divinità locale. I don't believe that. Io non ci credo. So, when he eats this rice pudding, it'll have an effect on him. He feels vivified. E quindi quando mangia questo budino di riso ha un effetto su di lui. Lui si sente rinato. Anybody who's eaten rice pudding knows the effect. Tutti quelli che hanno mangiato il budino di riso conoscono questo effetto. So, at this point, sometime after this point, he has a memory which is crucial to his process. Quindi subito dopo questo momento ha un ricordo che è un ricordo cruciale nel suo processo. And it's so interesting that this should be recorded in the scriptures. Ed è interessante che questa cosa viene effettivamente menzionata, viene, come dire, registrata nelle scritture. He remembers watching his father doing a plowing ceremony to open the plowing season. E si ricorda di suo padre che esegue una cerimonia dell'aratura, proprio dei campi, proprio all'inizio della stagione dell'aratura. So now, remember, he's a child, so we can presume he's under the age of 7. Quindi è un bambino, quindi supponiamo che sia che abbia meno di 7 anni. Now, if you think of a child and the way that it becomes engrossed in seeing something. Quindi se vi immaginate un bambino, vedete come diventa completamente engrossed, you mean involved? Involved in what they're looking at. Come i bambini siano completamente presi, coinvolti in quello che stanno guardando, assorti. So the next time you see a child, really study that face. Quindi la prossima volta che vedete un bambino, studiatevi quel volto. So the eyes are fixated, eh? Quindi gli occhi sono fissi. So this is the attention, the level of attention. Quindi questa è l'attenzione, questo è il livello di attenzione. And the mouth drops, eh? E la mandibola cade. So to us they look gormless, stupid. Per noi a vederli sembrano un po' idioti, un po' stupidi. And we tell them to close their mouth and wake up. E gli diciamo chiudi la bocca e sveglia. There was a woman told me that her father used to tell her that if she didn't close her mouth, a fly would go in. Una donna mi ha detto che da bambina suo padre le diceva che se non avesse chiuso la bocca sarebbe entrata una mosca. So in this way we destroy the ability to actually exercise this original mind. Quindi in questo modo, dicendo questo ai bambini, noi distruggiamo questo modo originale, this original mind. Sì, distruggiamo quindi il nascere, diciamo, lo sviluppo di questa mente originale. Mm. This original mind is the way that the Zen refers to it, original mind. E questa mente originaria è il modo in cui è un termine utilizzato dallo Zen. Ah. Now, the Zen also say no mind. Quindi lo Zen dice anche nessuna mente. Ah, but here they're referring to thinking. Nessuna mente. Nessuna mente. Here they're referring to thinking and imagining. Ma qui ci si riferisce al pensare, all'immaginare. So, remember, when that child is looking, you see, it's an absorption into the process of receiving. Quindi quando quel bambino sta osservando è un assorbimento nel processo del ricevere. Exactly in the same way that the meditation we were doing when we did standing meditation. Esattamente allo stesso modo di quello che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la meditazione in piedi. Remember I said, you know, the jaw is relaxed. Ricordate che vi ho detto rilassate la mandibola. And then just an openness. E poi semplicemente una apertura. See? And then as things come into the mind, there is an absorption into the object. Poi man mano che le cose entrano nella mente, c'è un assorbimento nell'oggetto. Somebody in? John Domenico, sì, bene. Benvenuto. So this childlike way of looking at things has certain qualities. Quindi questo modo infantile, sono da bambino, di osservare le cose ha determinate qualità. First of all, the absorption, the steadiness of attention. Innanzitutto questo assorbimento, questa fermezza dell'attenzione. Secondly, driven by interest. Secondo luogo, un'attenzione spinta dall'interesse. The child wants to understand what it is it's looking at. Il bambino vuole capire che cos'è ciò che sta guardando. And after it's absorbed everything, it then always turns round and asks, what is it? Poi dopo che ha assorbito il tutto, si gira e chiede sempre che cos'è. Once he has been told this is a beetle, see, from that point on, that child never sees a beetle again. Una volta che gli viene detto, beh, questo è uno scarafaggio, da allora in poi lui non vedrà mai, he'll never see a beetle again, as it is. Non lo vedrà mai veramente così com'è, perché è stato praticamente nominato. Because as soon as we label it, we create a memory. We create a memory, a perception. Perché appena mettiamo questa etichetta, noi creiamo un ricordo, una percezione. So the next time I see a beetle, this beetle is compared with the beetles I've seen. Ogni volta che vedo uno scarafaggio, beetle non è proprio uno scarafaggio, diciamo così, io lo confronterò sempre con gli scarafaggi che ho visto. And in this way, I begin to experience life second hand. In questo modo è come se io cominciassi a sperimentare la vita come se fosse di seconda mano. So now taking this as a inspiration, he goes to sit under the Bodhi tree. E quindi prendendo questo ricordo come ispirazione, Buddha va a sedersi sotto l'albero della Bodhi. The whole of his attitude is completely turned around. Quindi tutto il suo atteggiamento è completamente rivoltato. So before he's trying to seek an escape from suffering. Prima stava cercando di trovare una via di fuga dalla sofferenza. But now, with this inspiration, he turns into the suffering and asks, how does the suffering arise? Ma adesso, grazie a questa ispirazione, lui si volge verso l'interno e si chiede com'è che questa sofferenza sorge. And it is in discovering how suffering arises that he begins to understand how suffering comes to an end. Ed è proprio cercando di capire come la sofferenza sorge che arriverà poi a capire come cessa. And he is so well trained and so strong in his commitments that he says he either will work this problem out or die. Ed è così addestrato, così ben preparato e così determinato nel suo impegno che lui dichiara: io o raggiungerò il mio scopo oppure morirò. He doesn't see an alternative. Perché non vede nessuna alternativa. Now, lucky for him, lucky for us, 6 hours, he makes the break. E quindi poi, buon per lui e buon per noi, per sua fortuna e per nostra fortuna, dopo 6 ore lui effettivamente makes the break, come dire, ce la fa. Yeah, makes the break. And then, having attained this state of non-suffering, he then begins to contemplate its qualities. Quindi, avendo compreso questo stato di non sofferenza, raggiunto lo stato di non sofferenza, comincia a comprendere le sue qualità. Or how it came about. O come è sorto, come è stato sviluppato. So for those of you who know, that's dependent origination, the psychology of dependent origination. Quindi per coloro di voi che già lo conoscono, si tratta della originazione dipendente. And in the first watch of the night, that's 4 hours, he thinks of it going of how suffering is created. Nella prima parte della notte, le prime 4 ore, allora lui elabora, insomma, o pensa come la sofferenza viene creata. In the second part he investigates how this suffering is brought to an end. Nella seconda parte lui ricerca, insomma, analizza come questa sofferenza arriva a terminare, a una fine. And in the third part he goes both ways just to make sure. Nella terza parte della notte lui fa tutte e due i percorsi, così per sicurezza. So this tells us, you see, what is this right awareness, samasati. Quindi questo ci dice che cos'è questa retta consapevolezza, questa samasati. It is the investigation of how suffering arises in the first place. Quindi è l'investigazione riguardo a come la sofferenza nasce, tanto per cominciare, insomma, dall'inizio. Dall'inizio. So, normally speaking, when we have a problem, a relationship problem or some psychological problem, we want to work with a story. Quando abbiamo un problema o di relazione, un problema psicologico, ci piace lavorare con una storia, lavorare su una storia. But the Buddha is saying that the story is in fact the symptom. Ma quello che ci dice il Buddha è che infatti in realtà la storia è solo il sintomo. And we can do something about symptoms. Possiamo fare qualcosa riguardo ai sintomi. And that's why these psychotherapies which include mindfulness are so successful. Ed è per questo che le psicoterapie che comprendono la pratica della consapevolezza hanno tutto questo successo. But they won't bring you to the end of suffering unless the person is guided to seek the very origins of the problem. Ma non vi porteranno a vedere la fine della sofferenza, cioè a uscire dalla sofferenza, a meno che non vi guidino a vedere qual è l'origine di questa sofferenza. And the first is this whole problem of impermanence. Quindi la prima cosa è questo problema dell'impermanenza. Impermanence here means that nothing ever lasts more than this instantaneous moment. Qui in permanenza significa che non c'è nulla che duri di più di questo momento istantaneo. And that nothing repeats itself. E che nulla si ripete. And that everything comes to an end. E che tutto ciò che sorge cessa. Now, if you said that to most people, they would say, well, of course. Se lo dite, la maggior parte delle persone vi risponderanno, beh sì, è naturale. But the Buddha is not only talking about the things in the world and the body. Ma il Buddha non sta parlando solo delle cose nel mondo e nel corpo. He's also talking about this sense of me. Parla anche di questo senso del di me. Have you noticed that you're always here? Vi siete mai accorti che siete sempre qui? You wake up in the morning, here I am. Vi svegliate al mattino, eccomi qui. Any time during the day, it's me. In qualsiasi ora del giorno, sono io. Everything changes, but not me. Tutto cambia, ma io no. I seem to feel myself to be the same. Io ho l'impressione di sentire di essere sempre lo stesso. Ah, the body changes, I can see that. Il corpo cambia, sì, questo lo vedo. But I'm the same. Ma io sono lo stesso. My emotions, it's quite obvious, they move, they pass. Le emozioni, beh, qui è abbastanza ovvio, passano, cambiano. But I'm still here. Ma io sono ancora qui. My thoughts have changed over the period of time, I can see that. I miei pensieri sono cambiati nell'arco del tempo, questo lo vedo. But I haven't. Ma io no. No. I remain a sort of central reflection within myself, which seems to be above everything. Io sono una riflessione di me stesso, centrale, e sembra essere al di sopra di tutto il resto. So, this is the big delusion, eh? Questa è la grande illusione. And this is where the next teaching about the self comes into play. Ed è qui che l'insegnamento successivo, che è quello del sé, riguardo al sé, entra in gioco. So, the Buddha, in his second discourse, asks after he understands this, remember, his first thought is, who can I tell this to? Who can I teach this to? E quindi ricordate, quando il Buddha comprende tutto questo, il suo primo pensiero è, a chi posso trasmettere questa conoscenza? A chi la posso insegnare? So this is a really important understanding, that with wisdom compassion arises naturally. Quindi questa è una cosa importante da comprendere, che con la conoscenza, con la comprensione, la compassione sorge in maniera naturale, automatica. There is a desire always to share what one has. C'è un desiderio, sempre un desiderio di condividere ciò che uno ha compreso. And it is this that he thinks about his teachers, but they've died. Allora pensa ai suoi insegnanti, ma sono morti. So he goes in search of his old companions. E quindi va alla ricerca dei suoi vecchi compagni. Remember, he's in Bodh Gaya and they are in Sarnath near Varanasi, modern day Varanasi. Quindi lui è a Bodh Gaya e loro sono a Sarnath, che è la moderna Varanasi. That's a long way. Ed è una distanza piuttosto lunga. I think it's about 200-300 miles. 200 kilometers. See? How much? 200 kilometers? Yeah, so 200 or 300 kilometers. 200 or 300 kilometers. Yeah. So, you know, he really is intent on trying to find his companions to tell them this good news. Quindi è veramente convinto di voler trovare i suoi compagni per condividere con loro questa bella notizia. And when he sees them, of course, they really don't want to know him anymore. Ma quando li vede, loro non lo vogliono più conoscere, non vogliono più avere a che fare con lui. But it is said that as he approached them, they could feel there was something different about him. Ma si dice che quando lui poi si avvicinò a loro, si resero conto che c'era qualcosa di diverso in lui. And while he's talking, he always says to them, "Have you ever heard me say this before?" E mentre gli parla, mentre parla loro, gli chiede, "Voi mi avete mai sentito dire questa cosa prima d'ora?" And on the second discourse, he is getting them to understand the doctrine of not self. E nel secondo discorso lui cerca di far loro capire la dottrina del non sé. And he points out, if the self, remember, in those days was something which was in control and was eternal. Ricordate che in quei giorni il sé era una cosa che era in controllo ed era eterna. So he simply asked them, look at your body, look at your feelings, look at your thoughts. Are they under your control? And are they arising and passing away? Allora semplicemente gli chiede, guardate il vostro corpo, guardate i vostri pensieri, le vostre sensazioni. Are you in control? Yes, in control. Avete il controllo su queste cose oppure sorgono e passano? You see? So, the doctrine of not self is not saying there is no self. Quindi la dottrina del non sé non è dire, beh, non c'è un sé. If he said this, you see, he would have been known at that time as an annihilationist. Se avesse detto così, sarebbe stato ritenuto a quei tempi un nichilista. Ah. So he never goes that far. Quindi lui non arriva mai a questo punto. So he's saying there is an awareness, samasati, which has in it this quality of investigation. Allora, quello che lui dice è che c'è questa qualità della mente, questa attenzione, samasati, che ha la qualità dell'investigazione. And that this investigation must be pointed to these qualities of not me, not mine, and everything arises and passes away. Che questa investigazione deve andare nella direzione del riconoscere che non c'è un io, non c'è un mio, e che tutto sorge e passa. Mm. So that is on a deeper level, but on a more obvious level is the role of desire. Quindi questo è un livello più profondo, ma a un livello più superficiale c'è il ruolo del desiderio. Mm. And this, and to understand the distinction between the original feeling that arises and our relationship to it. E quindi comprendere l'origine, la sensazione originale che sorge e la nostra relazione con questa sensazione. Mm. And we discover that the self only has two relationships with the world. E quindi scopriamo che il sé ha solo due tipi di relazioni, di relazione con il mondo. Yeah. Either it wants to accumulate through greed, etc., or it wants to push away through hatred, aversion, or it wants to run away through fear and anxiety. Quindi o vuole trattenere le cose attraverso l'avidità, il desiderio, o vuole spingere via, allontanare attraverso l'odio, l'avversione, oppure vuole scappare attraverso la paura. So these two, aversion and fear, are in the Buddha's understanding the same thing. Secondo gli insegnamenti del Buddha, la paura e l'avversione sono la stessa cosa. Yeah, they're two sides of the same coin. Perché sono le due facce della stessa medaglia. Mm. They're both to do with not wanting. Perché entrambe hanno a che vedere con il non volere. Mm. So, here we have the understanding of right awareness according to the Buddha. Quindi qui abbiamo questa comprensione della giusta consapevolezza, la retta consapevolezza, secondo il Buddha. Mm. So when we meditate and we have sensations from the body which are pleasant and unpleasant, or unpleasant. Quando ci sediamo in meditazione abbiamo delle sensazioni nel corpo che possono essere piacevoli o spiacevoli. When we have mental states, emotions which are pleasant or unpleasant. Abbiamo stati mentali o emozioni che possono essere piacevoli o spiacevoli. Mm. Our samasati is just to investigate these qualities. Il nostro samasati è semplicemente investigare queste qualità. Qualità, yeah. When the mind is running away with thoughts, then it's very difficult to follow that. So always when we come out of a dream, we come back into the body. Quindi quando la mente è impegnata in pensieri, beh, è molto difficile seguirli questi pensieri. Quindi quando se ne esce, si torna sempre al corpo. Mm. And remember that when a mental state arises, it wants to seek expression. Ricordate che quando sorge uno stato mentale, cerca sempre un modo per esprimersi. Yeah. If it ends up creating a story, it is developing itself. Quindi se finisce per creare una storia, è come se si sviluppasse. Mm. If you want to make yourself more depressed, keep thinking depressive things. Se volete essere sempre più depressi, continuate a pensare a cose deprimenti. Mm. But the healing way for a mental state to express itself is through the body. Ma un modo invece terapeutico, diciamo, di guarigione perché un stato mentale possa esprimersi è attraverso il corpo. Mm. So when we are within an emotional state, a mental state, we are allowing it to express its turbulence. Quindi quando noi siamo dentro uno stato emotivo, dentro uno stato mentale o un'emozione, noi stiamo permettendo a questo stato di esprimersi. Mm. And this is the way it blows itself out. E questo è un modo attraverso il quale si può come dire blows it sfogare. But this sfogare has to be at the emotional level. Here in the body. Questo sfogarsi deve essere a un livello emotivo, ma dentro il corpo. Yeah. To go around shouting like an idiot, it doesn't do anybody any good. Di andare in giro a urlare come un idiota, questo non fa del bene a nessuno. So, I hope that's made right awareness clearer for you. Io spero che questo abbia chiarito un po' l'idea della questa giusta consapevolezza. Have a picture when you sit, you know, bring a picture to mind of a child, you see, in that state of just looking. Quindi quando vi sedete, immaginate, cercate di creare questa immagine mentale di un bambino che sta semplicemente guardando. And let your face become the face of that child. Fate in modo che il vostro viso diventi il viso di quel bambino. So now we have right awareness. Quindi abbiamo la giusta consapevolezza. And we put into that this curiosity. E ci mettiamo dentro questa curiosità. So, in the scripture, the Satipatthana discourse, the discourse on how to establish right awareness. Quindi in questo discorso importante del Satipatthana, che è il discorso su come stabilizzare questa giusta consapevolezza. Three words always are repeated. Ci sono tre parole che sono sempre ripetute. Atapi, Sampajano, Satima. Atapi is real energy, real constant commitment. Atapi è la vera energia, un costante impegno. But only to maintain mindfulness, only to maintain this awareness. Ma solo per mantenere la consapevolezza, questa presenza mentale. Not trying to get rid of something, not trying to see something. Non per cercare di eliminare qualcosa o per cercare di guardare qualcosa, vedere qualcosa. And this curiosity. E poi questa curiosità. Interest. Interesse. So these are factors of enlightenment. E questi sono fattori di illuminazione. Right effort, right mindfulness, and right interest. Quindi il retto sforzo, la retta consapevolezza e il retto interesse. Now the important thing to remember is that this discourse, which is the jewel of the collection, was given to lay people. La cosa importante è ricordare che questo discorso, che è ritenuto il gioiello della raccolta degli insegnamenti, è stato offerto a delle persone laiche. This discourse, which is the fullest discourse on how to become enlightened, was given to the people of Kurusadama. Questo discorso che spiega come diventare degli esseri pienamente illuminati è stato dato a un gruppo di persone, a una popolazione laica, of Kurusadama. Di Kurusadama, which is near modern Delhi. Che è vicino all'attuale Delhi, Nuova Delhi. he had visited them and given them his teachings. Quindi era andato a visitare questa popolazione e aveva dato i suoi insegnamenti. And when he came again, he was surprised to find that they were following his teachings. E poi quando ritornò si stupì di vedere che avevano effettivamente seguito i suoi insegnamenti. He was as surprised as I am when students do what I ask them to do. Era sorpreso come sono sorpreso io quando vedo che i miei studenti fanno ciò che io ho detto loro di fare. So he was so delighted he offered them this discourse. E quindi era così contento che gli ha offerto questo discorso. So often I'm asked, you know, can lay people become enlightened? E spesso mi viene chiesto, ma i laici possono raggiungere l'illuminazione? And I ask, would the Buddha have bothered to teach this discourse if he didn't think so? Allora io rispondo, ma Buddha si sarebbe preso la briga di insegnare questo discorso, di offrire questo discorso, se non fosse così? Se non fosse possibile? So, you know, right awareness is an open-minded, open-hearted observation. Quindi questa retta consapevolezza è un'osservazione con un cuore aperto, una mente aperta. An open-hearted, open-minded feeling, experiencing. Quindi è un sentire, un esperire, un sperimentare con la mente e il cuore aperti. With the spice of curiosity. Con questa aggiunta, questa spezia della curiosità. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. May by your constant effort and investigation. Che attraverso il vostro costante sforzo e investigazione. Be liberated from all suffering sooner rather than later. Possiate essere liberi da tutta la sofferenza prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu. Sadhu means well done, you see, bravo. Sadhu significa ben fatto, bravo. If you don't say that, I'm depressed. Se non me lo dite, io mi deprimo. There are scriptures where when the Buddha gives a talk, the monks and nuns and the listeners delight in the Buddha's words. Ci sono dei discorsi che terminano con questa frase che alla fine i monaci, le monache, ascoltatori sono deliziati dalle parole ascoltate. But there are also discourses where they remain silent. Ma ci sono anche dei discorsi dove gli ascoltatori, il pubblico rimane in silenzio. Ah, they didn't like it. Non mi erano piaciuto. Very good. So some little walking, maybe a bit, we have some time, maybe 20 minutes. Can you ring the bell at 20 to 8? 20 minutes. 7:30. So 20 minute break. So 10 to 8. Because we're finishing in time, aren't we? No, we're a quarter of an hour over. Oh, okay. I always speak too long. No, I thought it was 1 hour. Ok, quindi siamo andati un po' oltre e quindi la campana, però posso anche suonare la campana tra 20 minuti. Sì. Okay? 20 minutes, eh? Alle 8 meno 10. And then we'll sit for 3/4 of an hour, walk a little, sit more and go to bed. Poi ci sediamo per 3/4 d'ora, poi facciamo una camminata, poi di nuovo una seduta qui, poi andiamo a letto. Sarà la meta l'ultima seduta.